Buonasera, buonasera e benvenuti a Tutto Gol, la trasmissione che arricchisce le vostre giornate di gioia e di felicità. Oggi abbiamo una grande novità, abbiamo cambiato regista finalmente. Abbiamo il nostro amico Teobaldo da Serra Spiga. Buongiorno Paolo, a te a tutti i radioascoltatori. Teo, come ti trovi in questa regia? Ma, devi la verità, c'è una pochina di. Ma non ti preoccupare, mi do, a posto tutto io. E se mi paga, sul cazzo di tu. E la miseria, si peggi di Totorrino. Comunque, prego la regia di mettermi in contatto con l'allenatore della Juventus, Antonio Conte. Pronto, Antonio, sei in linea? Sì, buonasera a tutti. Ciao, Anto. Prima ti devo chiedere, prima cosa che ti devo chiedere, ma come una cazzo faccio così capito? Ma sei stata ad Alcore a ti fare una ricrescita? No, no, solo vita meno sregolata, niente Alcore, niente fumo, niente... Amo capito, non ti spiega troppo. Allora, dal punto di vista calcistico, hai resuscitato i morti. Ma effettivamente hai ragione, anche se ancora non abbiamo fatto nulla, è partita facile un cavolo, siamo in corsa su tutti i fronti, anche se giocando ogni tre giorni la Champions non è facile. Andando, scusa Nati, ma la Champions forse giocare a PlayStation. Vabbè, ma tu non è che puoi scendere sempre nei particolari qua a Vinoco. Vabbè, comunque, come Antonio, come hai gestito il caso del Piero, che tiene sulle spine molti juventini? Ma Del Piero comunque è ancora molto utile alla Juventus, sai che si avvicina a Natale, che ci fa le foto con i bambini, porti i regali e insieme agli Aquinta, Toni e Mauri, è colui che ha scritto sto copione di merda, faranno il presente vivente. Ma l'uccellino se lo porta pure a Pries. È probabile. Va bene Antonio, va bene. Comunque noi ti salutiamo. E speriamo un giorno di averti sulla panchina della nuova Cosenza. Sì, aspetta e spera e tanti saluti a Mimmo Toscano se ci sta ascoltando. Ah, comunque vedi che Mimmo Toscano non è più allenatore di Cosenza. Infatti, grandi complimenti con la sua Ternana, prima in classifica. Complimenti e tanti saluti alla signora. Va bene, arrivederci a tutti da Paolo De Palis. Con tutto, alla prossima. Ciao Teo! Allo culo!